want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Soundcheck. Microphone check. Il suono della musica di DJ Telesforo. Mio caro Francesco Tromba, non ti nascondo che mi sento un po' come gli ultimi giorni di scuola, perché questo weekend è il penultimo, il prossimo sarà l'ultimo, dopodiché abbandoneremo la radio per un po' di tempo per dedicarci esclusivamente ai concerti. Avrai notato che anche gli ospiti iniziano a scarseggiare proprio per questo motivo, perché gli artisti, i musicisti o sono in tournée o sono in vacanza. Eh sì, ora in questo periodo sono tutti in giro a suonare, no? Ecco, quindi mi sento anche un po' scarico. Per quanto sempre voglioso e pieno di note e voglioso di musica, oggi affrontiamo così l'appuntamento numero 164 qui su Radio 24. Posso salutare i nostri radioascoltatori? Buonasera a tutti. Ecco, buonasera a tutti da Giorgio Telesforo e da Francesco Tromba. Come vogliamo affrontare questa puntata, visto che non abbiamo ospiti? Visto che sei così scarico, magari potrei condurre io, però... Madonna, che generosità, che carino che sei. Sì, perché non presenti tu tutto il programma? Dai, così vedo proprio che cosa hai imparato durante questa prima stagione di Soundcheck. L'ospite, vabbè, lo fai tu, no? Mi sforzerò di farlo. Adesso devo capire che tipologia di ospite posso interpretare, se essere naturale o se fare l'ospite modello Loredana Bertè, che è stato un artista molto difficile da gestire durante le interviste. Eh sì, tra l'altro è anche mia conterranea, quindi... Ecco, infatti lo sapevo. Tu partirai con le domande calabresi, va bene, faccio il tuo ospite volentieri, però devi gestire te la puntata, quindi ti consiglio di salutare il pubblico e fare il tuo lavoro da bravo presentatore. Sì, ok. Buonasera a tutti, siamo qui per il soundcheck, la puntata numero... Beh, però presentati, eh. Io sono Francesco Tromba e l'effetto Renzi è iniziato, quindi la rottamazione parte da qui. Ma che significa la rottamazione? Che cioè mi stai rottamando, mi stai mettendo da parte? Eh sì, ormai diciamo c'hai una certa età, bisogna lasciare spazio ai giovani, no? Lasciamo spazio ai giovani, voglio vedere come se la caveranno oggi, vai. L'ospite di questa puntata sarà GG Telesforo, in mancanza di altri ospiti che sono tutti in giro. E già qui non sei stato carino, come dire, visto che non ci sono altri, ci accontentiamo di cani e porci. Visto che tu hai promesso di essere un ospite difficile, io sarò un conduttore ancora più difficile. Va bene, allora come andiamo avanti? Iniziamo appunto con il primissimo brano, che è un brano in cui tu registri. Posso darti un consiglio? No, presentami, ecco a voi, benvenuto al soundcheck, almeno fai quello, no? Benvenuto al soundcheck a GG Telesforo, nostro ospite di questa puntata. Grazie, sono qui perché non avevo nient'altro da fare e buonasera Francesco, è un vero piacere incontrarti. Piacere mio. Partiamo subito con la musica, partiamo dalla prima composizione con la quale io ti ho conosciuto, che è Mumbles di Clark Terry, nella quale appunto tu canti insieme a John Hendrix e a Clark Terry, ed è una composizione in cui appunto Clark Terry dà sfogo alla sua passione per il blues, ed è tutto un mumble appunto. È un mumbles, che è un mugugno vocale ideato da Clark Terry, che pur non essendo un vocalist ma un eccellente trombettista, anche è ancora in vita, però forse non fa più concerti perché non è in ottime condizioni, 90 anni passati, anche John Hendrix ne ha fatti 90, e questa è un'esperienza fatta nel 1994 a New York, quando ero lì per affiancare il mio maestro Ben Sidran nelle produzioni discografiche della Go Jazz. Ascoltiamo appunto Mumbles e poi ci sarà una domanda calabrese subito. No. in questa stranissima, diciamo, puntata del Soundcheck. Sono Francesco Tromba e sono pronto a fare una domanda calabrese al nostro ospite Gegé Telesforo. Grazie, sono prontissimo e ho la cuffia serrata. Dopo aver appunto registrato con due dei più grandi, diciamo, dei monumenti ancora viventi, per fortuna, del jazz, come John Hendrix e Clark Terry, non ti sei, diciamo, forse sentito un po' fuori posto quando eri in studio con loro? La verità, Francesco, è che mi sento sempre un po' inadeguato in alcuni contesti musicali e credo che questa sia la sensazione che provano tutti i bravi musicisti quando devono affrontare contesti emozionanti e affiancare i grandi maestri. Ti senti sempre un po' inadeguato. Poi io ho sempre pensato, affrontando queste situazioni, che ne so, qua era il caso di John Hendrix e Clark Terry in uno studio di registrazione importante come lo Skyline di New York, dove avevano registrato da Donald Fagen, Brecker Brothers, John Scofield, i grandi maestri del jazz contemporaneo, ma pure anche quando sono stato al Paisley Park di Prince, ho sempre pensato: come fa uno di Foggia, e potevo anche dire uno calabrese, ad affiancare questi grandi maestri e a registrare cantando nei microfoni sui quali hanno sputacchiato i più grandi vocalist del mondo? Eh sì, diciamo che un po' di pressione magari c'è, no? Una grande pressione. Poi ero molto emozionato, a parte che poi, sai, insomma, la musica è un po' come la matematica, è infinita, c'è sempre da imparare e si impara sempre dai grandi maestri e anche dai giovani talenti che, avendo proprio quel guizzo naturale e istintivo, ti lasciano sempre qualcosa. Rimanendo appunto sulle collaborazioni, volevo chiederti un'altra cosa, no? Come diceva ad esempio Vinicius de Moraes, no? La vita è l'arte dell'incontro, e nella musica questo è, soprattutto nel jazz, è ancora più valido e più vero. Quali sono stati per te gli incontri che ti hanno formato sia dal punto di vista musicale sia come uomo? Beh, ne dico due. Intanto Ben Sidran, perché con lui ho imparato il lavoro del musicista di jazz in giro per il mondo, il lavoro di producer discografico, e poi l'altro sicuramente Renzo Arbore, che mi ha insegnato a vivere da artista. I'm so cool, baby, when we stay together. The way you move your body, play these blues. There's nothing better we can do, my babe. And I'm so cool. Cool is what I am when I'm with you. Sound check. Il suono della musica. Non è facile fare il tuo ospite, mio caro Francesco Tromba, anche perché di solito sono io a condurre il programma qui su Radio 24. E non è neanche facile fare il conduttore, in quanto c'è bisogno, diciamo, di un ritmo quasi musicale per... Ma ce l'hai anche perché hai assunto parecchio peperoncino prima della puntata, e lo sento perché trasuda visibilmente dalla tua pelle. Eh sì, diciamo che con questo caldo non è neanche facilissimo riuscire a mangiare peperoncino e rimanere con una sudorazione pari a zero. Va bene, sopporterò il tuo afrore. Ma siamo pronti per un'altra domanda. Ecco, vai. Ti volevo chiedere: da chi hai ereditato la malattia, diciamo, per il jazz, e qual è stato il tuo primo approccio al genere? Hai detto una cosa giusta, perché ho ereditato la malattia da papà. Io sono nato e cresciuto in una casa e in una famiglia di appassionati di musica, papà in modo particolare, figlio di una musicista, quindi mia nonna era una fisarmonicista, una bravissima pianista, una compositrice, e quindi sono stato svezzato proprio dal suono del vinile di mio padre, che mi abbandonava nella culla facendo girare sul piatto i dischi di Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Charlie Parker e così via. E quindi sono arrivato a 13-14 anni convinto che l'unica musica esistente sul globo terracqueo fosse quella, fosse il jazz. Poi ho scoperto invece che esistevano anche altre realtà, esistevano i Beatles e i Rolling Stones, ma che a me non piacevano molto, cioè sinceramente non mi piacevano molto quelle canzoncine, e ancora oggi lo devo dire così, anche se il mio gusto è cambiato e sono onnivoro musicalmente, quindi cerco la qualità un po' dappertutto, però insomma non mi piaceva il suono dei chitarroni, queste canzoncine, mi piaceva proprio il senso dello swing, mi piaceva sentire la batteria, il contrabbasso che swingava e melodie articolate come quelle create da Charlie Parker, per cui sono arrivato a 13-14 anni convinto che la musica fosse quella e mi presentavo alle feste con gli amici portando i miei dischi, che naturalmente non venivano apprezzati, per cui le ragazze non ballavano con me. E quindi diciamo non ballava nessuno e tu eri l'unico sfigato della festa. Praticamente sì, ero l'unico sfigato e mi sono sentito sfigato a lungo, soltanto negli ultimi anni, insomma il jazz è diventato una musica che ha allargato il suo circuito, il suo raggio d'azione. Quando io frequentavo i festival jazz con mio padre mi accorgevo che il target presente ai festival, ti sto parlando della metà degli anni 70, quindi quando avevo 13-14 anni, era abbastanza alto. Oggi invece vai ai festival e trovi un target molto vasto, dai 17 anni fino ai veterani appassionati del genere. Grazie a Dio, diciamo che si è allargata la nicchia, fortunatamente, no? Eh sì, me ne accorgo anche perché quando si va in giro a fare le masterclass nei conservatori, nelle scuole di musica o anche alla Venice Boys Academy, dove ci vado un paio di volte all'anno lì a Los Angeles a dispensare, come dicono loro, nozioni, ma soprattutto quello che faccio è raccontare il mio rapporto con la musica e la mia mentalità. Ci sono ragazzi giovanissimi che studiano e apprezzano il jazz e conoscono il jazz con proprio nei particolari, ecco. E a proposito di giovani talenti, c'è un ragazzo che suona nella tua band che si chiama Arnaldo Santoro, che vive e studia a Londra, e qui lo apprezziamo in una tua composizione che si chiama Last Goodbye. Sì, questo è un brano scritto per New Joy, l'album prodotto per Columbia Records, e Arnaldo Santoro credo sia uno dei vocalist migliori in circolazione nel nostro paese, adesso gira fra Londra, Parigi, Los Angeles, sta facendo la sua strada e sta scrivendo la sua musica, e qui lo ascoltiamo in Last Goodbye. Continuando diciamo a parlare dei nuovi talenti, ti volevo fare una domanda, tu che diciamo hai tanta esperienza da dispensare ai giovani. Non lo so. No, penso di sì, dai. Ti volevo chiedere diciamo che trampolino possono utilizzare i giovani oltre ai noti talent show in TV per cercare comunque di ottenere un contratto discografico, comunque di diventare famosi, di riuscire a esprimersi su un palco che sia valido e che sia utile per accumulare esperienza. Beh, intanto avrei notato che i talent show puntano su certi stereotipi, quindi devi avere un certo tipo di vocalità muscolare e devi essere un appassionato di pop, o comunque ti deve piacere quella strada. Se ti piace il jazz e la musica classica, certamente vieni messo subito da parte, non ti fanno neanche avvicinare all'audizione. E per questi musicisti giovanissimi, e quindi c'è la sfortuna di non avere tante opportunità oggi, non ci sono programmi televisivi di riferimento, però hanno la fortuna di avere un mezzo formidabile che è internet, attraverso il quale puoi studiare, puoi colmare le tue lacune. Noi non ce l'avevamo, noi abbiamo studiato sui vecchi libri di musica classica e dovevamo poi tradurre questi studi sul senso dello swing e cercare di capire da soli come funzionava il linguaggio più vicino al jazz e al blues. Oggi invece c'è internet che aiuta i ragazzi non solo nell'approccio didattico, ma li può aiutare anche nella divulgazione della loro musica utilizzando le varie piattaforme. Però forse internet ha anche, diciamo, una colpa, nel senso che, almeno da quello che ho visto io, comunque la mia sensazione è che molte composizioni di giovani si siano un po' appiattite, cioè molti sono simili perché cercano di copiare, non so, il Britpop, perché gli piacciono magari determinati gruppi o altri, quindi non si punta sull'originalità. No, non si punta più sull'originalità e quindi sullo scrivere musica che può diventare tendenza, ma si punta direttamente alle cose che sono di moda per avere un successo immediato. Per esempio, parlando di Arnaldo Santoro, che abbiamo sentito in Last Goodbye, lui ha come modello, come riferimento, l'R&B di oggi, statunitense, neanche inglese, quindi da D'Angelo e Erika Badu, e cerca di trovare la sua strada proponendo in italiano questo modello, e questa è già una cosa abbastanza originale. Non credo che in Italia l'abbia fatto nessuno della sua generazione ancora. Eh sì, diciamo che in questo genere non c'è praticamente nessun artista che investe. E poi sta utilizzando internet, infatti ha fatto un singolo, è stato pubblicato su iTunes e, come notato nella classifica R&B qualche settimana fa di iTunes, l'unico brano italiano nei primi 10 era proprio quello di Arnaldo Santoro, che firma il progetto come Ainè, e effettivamente se lo ascolti c'è qualcosa di interessante. Eh sì, adesso appunto andiamo ad ascoltarlo. Questo è Ainè, ovvero Arnaldo Santoro, e il titolo della canzone è Cosa c'è? Io non trovo le parole, il silenzio ormai è rumore, come freddo sulla pelle, arriva all'improvviso, fa male. Soundcheck, il suono della musica. Questo era All I Have to Say di Giorgio Telesforo dall'album A New Joy. Giorgio Telesforo, che oggi è ospite del suo soundcheck, in quanto c'è una grossa penuria di artisti perché sono tutti in tournée. Vabbè, potevi evitare di precisare questa cosa, no? Ci facciamo una chiacchierata e oggi siete a farmi le domande, punto. No, invece proprio da calabrese, sai che mio padre mi ha detto: stai attento quando parli con Tromba a dirgli sempre questa cosa, perché sei calabrese, voi calabresi, perché mi ha detto, perché i calabresi sono vendicativi. Ma io non credo a queste cose. Infatti stai rischiando parecchio, perché tu mi stai ghettizzando come... Non ti sto ghettizzando, ti sto dando l'opportunità addirittura di condurre la mia trasmissione. Voglio vedere se Pippo Baudo ha mai dato l'opportunità, che ne so, a uno dei suoi ospiti di presentare Domenica In. Questo è anche vero. Diciamo. Ecco, è anche vero. Quindi abbiamo fatto la pace? Sì, pace. Allora passo subito a una domanda, dai. Che è meglio, vai. Ok, allora, penso che tutti ti facciano nelle interviste almeno una domanda su Renzo Arbore. Beh sì, è di prassi. E io invece ti volevo chiedere, diciamo, chi eri e cosa facevi prima di conoscere Renzo Arbore. Ma prima, beh, intanto lo conosco da sempre, come ti dicevo, perché frequentava casa, è foggiano, quindi papà e Renzo erano amici, suonavano jazz insieme a Foggia con la piccola tribù di appassionati di jazz. E quindi quando io mi sono trasferito a Roma per studiare, con la scusa di studiare economia e commercio, che non ho continuato perché lo dissi subito a mia madre che studiare all'università era troppo pericoloso per un musicista di jazz che faceva tardi. Tant'è vero che per colpa dell'università, proprio per il fatto che mi dovevo svegliare presto e andare a seguire le lezioni di statistica, materia, lasciamelo dire, noiosissima per un musicista, feci un frontale con la sua 126 gialla e fortunatamente dall'incidente ne venni fuori illeso, però abbandonai gli studi perché effettivamente avrei potuto avere altri incidenti terribili, perché feci proprio un frontale distruggendo la macchina di mamma. E quindi sapevo di voler fare il musicista, non sapevo ancora in cosa sarei riuscito, se come batterista, come cantante, come compositore, pianista, ma quello era l'obiettivo. Quindi poi, abbandonati gli studi, mi sono dedicato completamente alla musica e per colpa della musica mi sono ritrovato poi a lavorare anche con Renzo. Ci puoi raccontare di una canzone che piace, una delle tue canzoni che piace molto a Renzo magari? Allora, io a Renzo ho dedicato un brano intitolato Nero Vero, che è la storia di un viaggiatore, perché io considero Renzo senz'altro un amico, ma soprattutto uno dei più grandi viaggiatori che io abbia mai conosciuto nella mia vita e nella mia carriera. È un grande viaggiatore, si organizza il viaggio come lo organizza lui, veramente in poche persone, è veramente forte, anche se poi non lo posso seguire sempre e dappertutto, perché lui è fissato, c'ha una cosa compulsiva nella frequentazione dei mercatini, o deve andare assolutamente, se si torna a New York tre volte all'anno, lui tre volte all'anno deve andare sempre in quei posti perché sa che lì trova quelle stronzatine che piacciono a lui, che a me proprio non interessano, oppure va in quei posti dove si mangiano quelle cose che a lui piacciono e a me non piacciono. Insomma, alla fine nei viaggi abbiamo avuto qualche piccolo scompenso, però insomma fra le canzoni che ha apprezzato, per esempio di New Joy, c'è questo brano swing dal sapore retro che si intitola I Wanna Get Happy. Sentiamolo allora, dai. I wanna get happy, I wanna be loved, but I wanna be me, myself, and I, I'm gonna be alright. I wanna go shout, I want a new place, I wanna get out, get right, get down, I wanna see the lights. Can you hear me? Mi. Sound check, il suono della musica. Stronzo. Era un brano scritto da Lucio Dalla, però nella versione personalizzata, posso dire così? Sì. Ecco, una versione personale realizzata poco più di un anno fa insieme ai miei compagni di avventura, Domenico Sanna al pianoforte, il bravissimo Alfonso De Ida al sax contralto, Joseph Bassi al contrabbasso, Roberto Pistolesi alla batteria, di questo brano scritto da Lucio Dalla, ma qui lo abbiamo completamente stravolto, che nel 1983, anno della pubblicazione, i disc jockey nelle radio private non suonavano per il titolo. Addirittura. Eh sì, infatti, visto che oggi conduci tu il programma Io sono il tuo ospite, mio caro Francesco Tromba, lo dovrai disannunciare tu. Sarà un piacere. Prego. Allora, questo era Stronzo, una riedizione della canzone di Lucio Dalla, fatta da Gege Telesforo. Hai fatto bene ad annunciarlo così, senza dare tanto peso. Allora era proprio censurato per il titolo il brano. Rimanendo su Lucio Dalla, io ti volevo fare una domanda, perché in questi ultimi giorni mi è capitato di guardare su YouTube un video tratto da Doc, nel quale c'eravate tu e Lucio Dalla che facevate un'improvvisazione, diciamo proprio su sketch. Ti volevo chiedere, appunto, mentre in quell'epoca con Doc andavano in televisione anche in prima serata personaggi del calibro di James Brown, Miles Davis, oggi in prima serata ci ritroviamo magari al massimo Amici di Maria De Filippi o X Factor, secondo te c'è spazio ancora in TV per della musica di qualità, oppure la musica di qualità ha degli altri contenitori oggi? No, secondo me c'è spazio per la musica di qualità assolutamente, e che i grandi artisti devono essere coinvolti in queste produzioni, quindi ci deve essere un dirigente, un autore che convoca, che so, D'Angelo, George Benson, Al Jarreau, Herbie Hancock a partecipare a un programma di prima serata, ma soprattutto lo deve pagare, perché la differenza sta tutta lì. Doc è un programma che ha avuto un grande successo proprio per la divulgazione e la diffusione di un certo tipo di musica, ma gli artisti che si esibivano venivano pagati, perché giustamente quando un artista si esibisce e propone la sua performance che resta in televisione, quindi c'è anche uno sfruttamento dell'immagine, deve essere remunerato. Oggi invece la musica che viene proposta in televisione va in televisione, passa in televisione, proposta dagli artisti che devono vendere e promuovere il loro materiale. È un po' come portare un detersivo o parlare di una nuova automobile. Però diciamo ci sono anche degli esperimenti molto simpatici, come ad esempio mi viene in mente Sostiene Bollani, che è un modo realmente originale, anche divertente, per cui si imparano e si conoscono anche magari dei generi o dei personaggi della musica che non si conoscono, comunque non sono noti al grande pubblico, in maniera comunque divertente, come se fosse uno show. E il merito infatti non è soltanto di Stefano Bollani, ma anche dei dirigenti di Rai 3, che hanno avuto il buon gusto di puntare su un musicista italiano così forte, così importante a livello internazionale, e di affidargli completamente la gestione di uno spazio che ha riportato la buona musica dopo anni in televisione. E a proposito di buona musica, andiamo ad ascoltare una tua composizione che si chiama Gone. Raccontaci un po' della formazione, magari. Di Gone? Sì. Di chi ha suonato? Sì. Ebbene, sono gli stessi musicisti di prima, se non fosse che alla batteria c'è un signore che si chiama John Avatartelli e c'è Max Ionata al tenore, e niente, ho scritto il pezzo, siamo entrati in studio di registrazione, lo abbiamo registrato e adesso lo suoniamo in radio. Ok, sentiamo, vediamo. Vediamo. Yes. To look back, I'm moving. Gone. The time has come to believe. Soundcheck. Il suono della musica. Bentornati al Soundcheck per una puntata totalmente atipica e bravo, fuori dagli schemi. Bene, vai. Nella quale io, Francesco Tromba, sono il conduttore, mentre Gege Telesforo, in mancanza di altri ospiti, è l'ospite. Ecco, ancora una volta non sei stato carino, eh? Bisogna sfruttare le proprie posizioni di potere per vendicarsi un po' di alcune cose. Vendicarsi? Che cosa ti devi vendicare? Ah, no, è vero, avevamo fatto la pace. Il brano che abbiamo appena ascoltato si chiama Mother Tongue ed è registrato al Paisley Park di Prince. Ti volevo chiedere di raccontarci un po' questa esperienza, com'è stato registrare lì proprio nel tempio, possiamo dire, dove ci sta Prince, dove abita Prince. Beh, la cosa è successa perché io ero negli Stati Uniti per lavorare con sempre la Go Jazz del mio amico Ben Sidran, che utilizzava due studi per le produzioni più vicine al suono del jazz, lo Skyline Studios di New York, invece per gli album più vicini all'R&B e al soul si rifaceva allo studio di Prince al Paisley Park, perché al Paisley Park lavoravano i fratelli Peterson di Minneapolis, che appartenevano alla Go Jazz di Ben Sidran, e quindi mi ritrovai anch'io per un periodo, andava dalle 3 settimane al mese lì a Minneapolis a registrare per le produzioni di Ben Sidran. In quel periodo, nello studio di preproduzione dei fratelli Peterson, iniziai a lavorare su questo album intitolato The Mother Tongue. E sempre per la cosa che ti ho detto prima, io mi sentivo un po' un pesce fuor d'acqua lì, in modo particolare perché ero sempre uno di Foggia, appassionato di jazz, al Paisley Park, che negli ultimi anni aveva sfornato i successi di Prince da prime posizioni in classifica, e un giorno me lo sono ritrovato davanti con Sidran, che me lo ha presentato. Poi in quel periodo era anche complicato parlare con Prince, perché non voleva farsi chiamare Prince, firmava i dischi come Tough Cup, di Artist Formerly Known as Prince, perché aveva i suoi problemi con le case discografiche. Fatto sta che fu molto carino, era tutto vestito di bianco con occhialetti rotondi con le lenti azzurrate, e mi chiese, ha detto come stai qui al Paisley Park, ti piace ballare? Ho detto ma sinceramente non ballo, ma mi piace la musica. Ha detto allora perché non vai al Glam Slam, il mio club, questa sera? Mi fece fare gli accrediti e la sera andai in questo Glam Slam, il locale di Prince, dove capii che cosa significa ballare da un beat e vedere. Posso utilizzare un termine scientifico nel tuo programma? Sì, ecco, certo. Vedere quei bei culacchioni delle sorelle nere che shakerano tutto quel ben di Dio ascoltando funk e R&B. Scientifico proprio al massimo. È scientifico proprio come Veronesi. Dai, adesso ti faccio un complimento. Se posso permettermi, secondo me questo disco anticipa ed è molto avanti in alcune sonorità che poi sarebbero state da primi posti in classifica in Italia. Quale? Mother Tongue. Questo non lo so, perché comunque era un disco avanti e particolare, e infatti per avere successo credo che si debba sempre restare un po' legati al momento. Se sei troppo avanti le cose non funzionano bene da un punto di vista commerciale. Non vendi dischi, e infatti io non li ho mai venduti. E tanto oggi più di tanto oggi non si vendono tanto più, quindi è inutile. Passiamo a Penso Positivo. Come mai hai cantato una canzone di Jovanotti? L'ho cantata perché il maestro Giovanni Tommaso realizzò sempre in quel periodo, quindi metà anni 90, un album intitolato Strane Stelle Strane, con il suo quintetto, con Roberto Gatto, Danilo Re al pianoforte, c'era Boltro e Pietro Tonolo al tenore, utilizzando il repertorio, alcuni brani scritti da songwriter italiani, rivisitandoli in chiave jazz, quindi uno dei primi esperimenti. E siccome Lorenzo Cherubini, e quindi Jovanotti, non si presentò in studio per realizzare questa versione di Penso Positivo, alla fine Giovanni, avendo realizzato l'arrangiamento, mi chiamò e io mi sono ritrovato in studio con il testo di Penso Positivo, quindi credo che sia uno dei pochi rap fatti nella mia carriera, forse l'unico, poi in italiano, e ci siamo molto divertiti, e questo è quello che abbiamo combinato insieme a Giovanni Tommaso per Penso Positivo di Jovanotti. Soundcheck, il suono della musica. Siamo ancora qui al soundcheck di GG Telesforo per una puntata speciale nella quale sarò io, Francesco Tromba, a condurre. GG Telesforo è l'ospite del suo programma, che questo, diciamo, è abbastanza un'anomalia. È abbastanza un'anomalia, mi sento anche un po' a disagio, lo ripeto. Allora ti faccio subito una domanda, dai. Fammela. Ti volevo chiedere perché hai cantato, diciamo, così poco in italiano, perché di solito comunque componi dei testi e dei testi in inglese, per quale motivo? Ma intanto credo proprio per il fatto che mi sono formato ascoltando i grandi classici del jazz, quindi le canzoni di George Gershwin, Cole Porter, Rodgers e Hart, e poi perché ho sempre pensato alla musica più, cioè, con un respiro internazionale, quindi pure scrivendo le canzoni le ho sempre pensate in inglese, non ho mai ragionato in italiano, magari per partecipare a Sanremo o per fare quel tipo di percorso, però poi, insomma, mi è capitato di cantare in italiano, anche se non mi piaccio più di tanto, anzi non mi piaccio quasi mai in nessun tipo di contesto. Credo è una cosa che poi ho capito che succede a molti artisti: le cose le fai, le registri, le ascolti, poi le metti da parte e non le vuoi più risentire per tutta la vita. Dai, non sei così male quando canti in italiano. Ti ringrazio, però insomma lasciamo fare questo tipo di lavoro a chi lo sa fare bene. Per esempio la numero uno secondo me è Giorgia, perché Giorgia è riuscita a dare una coloritura internazionale, quindi inglese, al testo in italiano. È un'altra cosa che ti volevo chiedere, diciamo, tu canti in sketch perché non ti ricordi o non sai l'inglese? No, perché non ricordo le parole. Questo perlomeno è quello che dice Renzo, che pensa Renzo, e ogni tanto mi presentava così: GG Telesforo fa sketch perché non ricorda i testi e le canzoni. Un po' è vero, perché non ho una buona memoria per i numeri e per i testi delle canzoni, però poi faccio sketch perché mi piace improvvisare con la voce, e ho approfondito questo tipo di linguaggio fatto di suoni, di fonemi, un linguaggio fatto di sillabazione. Andiamo alla musica, però, dai, ascoltiamo una tua composizione nella quale canti in italiano, stranamente, che si chiama Opopomoz Blues, che è la colonna sonora, diciamo, dei titoli di coda di un film d'animazione di Enzo Dalò che si chiama appunto Opopomoz. Ti volevo chiedere una cosa: ti è piaciuto fare una colonna sonora? No, moltissimo, mi è piaciuto tantissimo lavorare per questo cartone animato di Enzo Dallò, anche perché è stata una cosa velocissima, perché la colonna sonora del film è stata realizzata da Pino Daniele, e poi invece Enzo mi chiese di scrivere qualcosa proprio per commentare i titoli del brano, e poi il brano è stato i titoli del film, e poi il brano è stato utilizzato anche come sottofondo ai trailer per la promozione del film, quindi ha avuto una buona esposizione. E pensai proprio a Opopomoz come un blues, perché il film parla di tre diavoletti, quindi siccome la musica del diavolo era il blues, allora per una serie di associazioni scrissi questo Opopomoz Blues, con il quale racconto ai bambini il piacere di suonare il blues e perché bisogna conoscere il linguaggio del blues. Perché la vita è un blues, passo dalla felicità, oh yeah. Perché chi canta il blues, chi ama il blues, perché chi sente il blues, chi fischia un blues, il mio blues tonight. Opopomoz, perché questo è il mio blues, Opopomoz. Tri tu tapu su te ti piu, lui ti papu papu, li udi tu. Questa era Opopomoz Blues, dalla quale avrete sicuramente riconosciuto i cori dei Neri per Caso. Alla chitarra c'era Marco Rinalduzzi, alla batteria Roberto Gatto, e invece al basso elettrico il grande Dario De Idda, che è uno dei tuoi più grandi, diciamo, collaboratori, uno dei tuoi fedelissimi. Ti volevo chiedere come fai a scegliere i componenti delle tue band, in base a che cosa chiami una persona, un artista o un altro? In base agli incontri, poi ci sono delle affinità elettive. Di solito i musicisti che, con i quali mi piace collaborare hanno il background del jazz, sono appassionati di blues e seguono tutte le vicende della musica. Sono musicisti preparati, versatili, onnivori musicalmente. E con un talento, posso dirlo, anche superiore alla media, come nel caso di Dario De Ida, che ormai è considerato nel mondo uno dei migliori bassisti elettrici, se non il migliore, lo pensa anche Marcus Miller. Quindi anche se adesso non stiamo lavorando insieme con concerti, però cerco sempre l'occasione di coinvolgerlo almeno nelle produzioni discografiche, cosa che ho fatto anche per New Joy, dove il bassista titolare è Joseph Bassi con il suo contrabbasso, però c'è un brano intitolato Give Me Your Hands, adatto proprio al groove tipico di Dario De Ida, e infatti il pezzo è venuto così come ce l'aspettavamo. Andiamo ad ascoltare appunto Give Me Your Hands. Give me your hands and close your eyes right now. It's time to say how much I love you, my darling. You know I need you tonight. Cause I'm so happy for the life we live. We walk together. How many clouds, raining day. We never stop to believe in love. We walk together. Soundcheck, il suono della musica. Alone among the people, always the same, but I know I've changed. Wind is blowing and it carries my E ce l'hai fatta, mio caro Francesco Tromba, hai portato a casa un bel risultato, hai condotto per la prima volta, e devo dire egregiamente, con una bella faccia tosta che devono avere tutti i conduttori radiofonici, ma soprattutto quelli che fanno anche televisione, hai condotto il tuo primo programma radiofonico su una radio importante, su un grande network come Radio 24. Complimenti, li puoi girare anche a tua nonna Tromba. Grazie per i complimenti e anche per l'opportunità. Sono sicuro che ci saranno i festeggiamenti lì in Calabria, a casa prepareranno tutte quelle prelibatezze delle quali sei goloso. Eh sì, infatti diciamo non vedo l'ora di finire il programma, perché così a fine luglio scenderò giù per gustare la cucina delle mie nonne. Ma non abbiamo ancora finito, l'opera non è ancora completa, perché qui dopo New Joy con la voce bellissima della nostra amica Greta Panettieri, stiamo per chiudere anche questa puntata del Soundcheck che tu mi hai dedicato. È molto forte, perché mi hai dedicato una puntata a un artista che di solito presenta il programma. È una cosa anomala. Eh sì, decisamente anomala. Poi comunque ci avrei un'ultima domanda, facciamo, dai. E vai. Ti volevo chiedere, dalle due band sono passati diciamo tantissimi talenti, no? Possiamo dire appunto che le tue band, i tuoi musicisti sono una garanzia di qualità. Se hai avuto solo fortuna perché frequentavi il giro giusto nel scegliere i tuoi musicisti, oppure sei andato a prenderteli uno a uno, proprio selezionati appunto? Sì, forse ho avuto la fortuna di trovarmi nel posto giusto al momento giusto e di aver ascoltato l'arte e il talento di alcuni fra i migliori musicisti italiani nel mondo e di essere riuscito a coinvolgerli nelle mie vicende musicali. Quindi contento di aver lavorato con Dario De Ida, con suo fratello Alfonso, con grandi batteristi da Roberto Gatto a Agostino Marangolo, oppure a Roberto Pistolesi, Marco Valeri, ma insomma ce ne stanno tanti di musicisti bravi con i quali continuo a condividere il palcoscenico e le produzioni discografiche, e fra queste c'è uno dei miei sassofonisti preferiti, che è Max Ionata, con il quale sto in giro per l'Italia e presto per il mondo con il suo organ trio, al quale ho anche dedicato una composizione, proprio perché il suo modo, il suo approccio, la sua passione per la musica mi ha sempre emozionato. Adesso andiamo a sentire appunto una composizione che tu hai dedicato a Max. Esatto, che si intitola poi Brother Max, tratta da So Cool, album realizzato insieme ad Amedeo Ariano alla batteria, meraviglioso musicista, Dario De Ida al basso e al contrabbasso, Alfonso De Ida al pianoforte e ai sassofoni, e Max Ionata al tenore in questo brano. Però dobbiamo salutare tutti, quindi ringraziamo il pubblico di Radio 24, io ringrazio te per avermi dato la possibilità di essere ospite del mio programma. E io ringrazio te per avermi dato la possibilità di condurre questo programma. Allora, domani però i ruoli tornano così come da contratto, e quindi ci risentiamo domani sempre qui su Radio 24 per la prima parte del soundcheck a partire dalle 15:30 e poi la seconda parte, quella più jazz, che arriverà dopo le notizie e quindi alle 19:15. A tutti voi buona serata e tanta buona musica da Gigi Telesforo. Da Francesco Tromba. Grazie Francesco.